Anco Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scherzi. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, le 7:19 minuti. Siamo qui nello spazio di rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti appunto a leggere i giornali. Sono pronto e voi che dite? Siete pronti, caro Peter, caro Lorenzo, cari ascoltatori? Via! Oh, non sanno di che parlare i giornali, È mercoledì 2 novembre. Con le aperture di molti quotidiani dedicate sempre al terremoto, come il Sole 24 Ore, terremoto mobilitati i soldati, meno burocrazia per le imprese, questo è il titolo di prima pagina, così il Messaggero contro gli sciacalli, 500 soldati. Per il Corriere della Sera, nuova forte scossa, il grido dei sindaci, qui crolla tutto, in tre giorni 1120, si chiamano così le scosse, eventi. Per Repubblica, controlli in 200.000 case. La Stampa, terremoto, emergenza, bambini. Questo è il titolo di prima pagina. E poi c'è chi apre sulla vicenda irachena. Battaglia capitale, l'esercito di Baghdad rientra a Mosul, e questa è l'apertura del Manifesto. Mentre la politica, per il Fatto Quotidiano, fuga dalla sconfitta, Renzi e Napolitano vogliono rinviare il voto a primavera. Sondato Berlusconi che dice no. Su questa notizia apre anche il giornale. Il referendum rischia di saltare, sorpresa in vista. Qui vedremo, c'è un ricorso, tra poco ne parleremo, che pende. E c'è questo rischio, bisogna capire se è un rischio così concreto come raccontano alcuni giornali o se è un rischio invece minore. In ogni caso, partiamo dalle notizie dal terremoto, sono tanti inviati, sono tante le notizie. Gli elementi, diciamo, di maggiore interesse, ovviamente a parte le scosse, che purtroppo quelle sono pane quotidiano, gli elementi di maggiore interesse dei giornali sono intanto la questione di 22.000 persone assistite, in costruzione 50 campi e per presidiare le case vuote arrivano 450 soldati. Fiorenza Sarzanini parte da questi tre numeri a pagina 4 del Corriere della Sera per raccontare l'emergenza. Dunque 50 campi da costruire, 22.000 le persone da assistere e 450 soldati in arrivo per proteggere anche dagli sciacalli che vanno nelle case per cercare di rubare le cose. Tra l'altro arriva una persona che rispunta in qualche modo, è il prefetto Tronca, ex commissario straordinario di Roma, racconta Repubblica con Liana Milella, pagina 7, affiancherà Cantone nei controlli antimafia per la ricostruzione. Cantone e Tronca, il presidente dell'autorità anticorruzione e l'ex prefetto di Milano ed ex commissario di Roma, lavoreranno insieme. Renzi ha deciso così. Nelle prossime ore il governo formalizzerà l'incarico per Tronca, che dopo aver lasciato la capitale a giugno torna alla ribalta con un ruolo nell'ANAC accanto a Raffaele Cantone. A lui saranno affidati in particolare tutti i controlli antimafia per prevenire il rischio che le imprese nelle cosche mettano le mani sugli appalti e sui subappalti. E racconta Repubblica, è certo che tra Cantone e Tronca corre un ottimo feeling. Il 16 marzo, quando Tronca si occupava ancora di Roma, Cantone disse con lui c'è una collaborazione continua, anche un rapporto di amicizia, e dunque lavoreranno insieme. Questa è l'anticipazione di Repubblica. Poi l'altro grande tema sviluppato dai giornali è quello della burocrazia. La burocrazia che in qualche modo in questa situazione di grande confusione rischia di produrre ulteriore problematiche. Il rischio burocrazia, eccolo qua, Giuliano Foschini su Repubblica, 200.000 case lesionate dal sisma, l'allarme dei sindaci. Per esempio ci sono due sindaci, uno sul giornale è il sindaco di Ascoli, che vuole fare un appello proprio a Cantone dicendo ora non blocchi la ricostruzione, ci vogliono procedure legali, questo certo, ma veloci, che facilitino il ritorno alla normalità. Dice il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, qui mancano pure le transenne, per dire. Al momento l'emergenza si chiama San Francesco, la torre campanaria della bellissima chiesa costruita nel 1265 ha bisogno di un controllo urgente. Ho fatto transennare tutta l'area, dice il sindaco, non ci dormo la notte. Due sono i rischi, l'incolumità delle persone e il rischio di perdere un tesoro architettonico inestimabile. E lui si sente con le mani legate. E così con le mani legate anche il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, che racconta il giorno a Giancarlo Falcioni, a pagina 7, ha una chiesa semicrollata ed è disposto a demolirla di persona a costo di farmi denunciare. È lesionata, è pericolosa, ma dice lui la burocrazia blocca gli interventi. È previsto per abbattere quella chiesa un iter complicato che in condizioni normali va rispettato, ma per completarlo servirebbe una settimana, forse 10 giorni. Il problema è che i tempi di questo iter non coincidono con i tempi dell'emergenza. Bisogna agire subito. La richiesta dovrebbe passare dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Soprintendenza, coinvolgendo anche la Curia, che è proprietaria della chiesa. E allora, dice lui, mi denunciassero pure, ma io non posso subordinare la sicurezza dei cittadini a un muro pericolante. Questa chiesa fotografata sul giorno è quel che resta di una chiesetta praticamente semidistrutta, e il sindaco di Ussita dice non posso abbatterla, ma ora lo farò. A tutto questo risponde in qualche modo il ministro Dario Franceschini, intervistato dal Corriere della Sera pagina 2-3 da Paolo Conti. Effettivamente dice che questo problema c'è. Ora serve il bando anche per una spesa sotto i 20.000 euro. Vincoli eccessivi li cambieremo. Condivido il grido di dolore che arriva dai sindaci esposti in prima linea sul terremoto. Nell'imminente decreto legge annunciato dal Presidente del Consiglio inseriremo norme straordinarie per i beni culturali. Certe regole troppo vincolanti sono nemiche della necessaria velocità, dice il ministro Franceschini. I comuni, le soprintendenze, la protezione civile potranno agire subito con una chiamata diretta del direttore dei lavori di una ditta per interventi immediati. In Italia siamo al paradosso, la scelta discrezionale è sinonimo di corruzione. Anche sotto terremoto, di fronte a un crollo e per spese sotto i 20.000 euro occorre una gara per il progettista, una seconda per l'impresa, di cui faremo il decreto legge. Poi parla anche del perché non sia stata messa in sicurezza la cattedrale di San Benedetto di Norcia, dell'immenso impegno della ricostruzione, ma l'impegno maggiore soprattutto è per snellire questa burocrazia. Vedremo davvero se ci sarà questo tipo di intervento da parte del governo per snellire le procedure. In tutto questo, Del Rio invece, ministro delle infrastrutture, lancia un'idea all'Europa. Ora io non lo so, va bene tutto. La proposta di Del Rio è questa: Bruxelles ricostruisca la Basilica di San Benedetto di Norcia. Fossi in Juncker, io ci penserei. San Benedetto d'altronde difese la nostra cultura. Ma per carità, poi si rischia di dire delle cose scomode, delle cose antipatiche, ma che la prima preoccupazione dell'Unione Europea in questo momento sia di costruire e ricostruire una basilica con tutto il suo patrimonio culturale, con tutto il suo patrimonio storico, con tutta la sua importanza, ma forse ci sono altri ambiti. Allora, se chiedete l'Europa si impegni totalmente e con soldi sonanti anche per la gestione dei migranti, che l'Europa magari si impegni per mandarci le case prefabbricate, ci aiuti ad accogliere 20.000 sfollati in una maniera perfetta, precisa. No, la prima richiesta è Bruxelles ricostruisca la basilica di San Benedetto di Norcia, oggi distrutta perché San Benedetto difese la nostra cultura. Non sono d'accordo, come si è capito, ma va bene. Allora, siamo però all'articolo che mi fa più sore della giornata. Entriamo un po' nel clima politico, anche perché dopo la pubblicità dovremo raccontare della questione del referendum. Il Parlamento dei trasformisti, così il 27% ha cambiato casacca. Ogni tanto ci sono queste statistiche. è Il Fatto Quotidiano con Valeria Pacelli, che racconta come da inizio legislatura si siano aperte le danze, gli eletti vanno e vengono da un partito all'altro, il record è in Senato, dove più di uno su tre ha cambiato casacca, uno su tre. E viene intervistato da Carlo Tecce il classico Luigi Compagna, ogni tanto rispunta, il senatore recordman con sei passaggi da una parte all'altra. Uno dotato anche di una discreta ironia. Dove hai scritto oggi, senatore? Ma perché mi fa una domanda con una risposta che potrebbe valere per poco tempo? E beh, complimenti per l'ironia, mi permetto. Non capisco questa vostra curiosità statistica. Io, è vero, non sono un pendolare tra gruppi di maggioranza. Io resto sempre all'opposizione. Quindi cambio, ma nell'opposizione. Era Forza Italia, poi abbandonato, è andato a Gall, poi per l'NCD di Alfano, poi è tornato, poi è andato, poi è tornato ancora in Gall. Ora è in Conservatori e Riformisti, ma dice: sono arrivato qui solo perché dopo che Verdini gli aveva sottratto un senatore rischiava di essere sciolto questo gruppo. Insomma, sono qui per un generoso soccorso ad amici. Ma dove la porterai in futuro? Sto bene ovunque purché non si tocchi la mia libertà di pensiero. E poi forse dice la frase che è la più vera tra tutte: mi adeguo all'altezza della bassezza dei tempi. Così il senatore Luigi Compagna, che dice i partiti non esistono più, vado dove mi pare. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan aspetta Mauro Meazza che lo venga a prendere con l'ape. Allora, alle 7:35 minuti dobbiamo parlare di politica. Qui cigolano le sedie, sentite. Cominciano a cigolare le sedie. Allora, la questione del referendum è una questione interessante perché sul referendum si vota il 4 dicembre, ma i giornali cominciano a raccontare che c'è un movimento sotto. Intanto c'è un ricorso che pende. Come racconta Luca De Carolis a pagina 3 del Fatto Quotidiano, c'è il ricorso presentato dall'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. E il destino del referendum dipende da una donna. Ogni residua possibilità di fermare la corsa verso il voto del 4 dicembre passa infatti per Loreta Dorigo, è giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano. Cattolica praticante, mai iscritta a correnti della magistratura, uno dei tre giudici che nel 2009 condannò per corruzione in atti giudiziari l'avvocato inglese David Mills, accusato di aver ricevuto almeno $600,000 da Berlusconi per testimoniare il falso in due processi al fondatore della Fininvest. Sarà dunque lei con questo profilo a decidere, presumibilmente entro questa settimana, sul ricorso di urgenza del presidente emerito della Consulta Valerio Onida contro il decreto di indizione del referendum costituzionale. Onida ritiene il decreto incostituzionale principalmente perché pone un quesito unico agli elettori, mentre la legge oggetto e contenuti assai eterogenei tra loro. Tradotto, agli elettori andavano posti quesiti distinti. Questo è il senso del ricorso di Onida. Questo è ciò che dovrà decidere. Su questo si dovrà pronunciare il giudice Loreta Dorigo in settimana. E dovesse dire sì, effettivamente il ricorso è accolto e questo quesito è incostituzionale, ecco che si profila il rinvio. Secondo Fabrizio D'Esposito, e siamo nel retroscena, proprio a pagina 2 del Fatto Quotidiano, dopo la cronaca, nonostante le smentite renziane, il rinvio non esiste, ha detto, continua assordante intenso il rumore di fondo su un eventuale spostamento del referendum costituzionale, complice ovviamente la decisione della giudice milanese che dovrà esprimersi. Tanto che racconta il Fatto, nei giorni scorsi, anche Berlusconi si è espresso così, che faccia tosta al Premier. Fino a qualche giorno fa ha supplicato il presidente Berlusconi di aiutarlo a rinviare. Adesso fa finta di nulla. Questo dice una fonte di lato berlusconiano. E Berlusconi si sarebbe pronunciato dicendo un no chiaro e forte a ogni spostamento della data. Questo però pende. Ecco, sappiatelo, cari ascoltatori, ovviamente fantapolitica, rumors, retroscena. In tutto questo è simpatico l'effetto mediatico, perché Valerio Nida è anche un collaboratore del Corriere della Sera, e mentre ci si affanna sul ricorso di Valerio Nida, l'ex presidente della Corte Costituzionale invece scrive di terremoto sul Corriere della Sera a pagina 28. Il suo editoriale: una politica di ampio respiro e non di sole rassicurazioni sull'Europa, sulla cassa per il mezzogiorno, sul terremoto. Parla di queste cose Valerio Nida, mentre tutta l'Italia, tutta la politica è col fiato sospeso per il suo ricorso presentato. A proposito di retroscena, il quotidiano Libero racconta di un altro retroscena, di una grande ammucchiata, manovre a palazzo, Alfano chiama Silvio, riuniamo i moderati. Cioè, il tentativo sarebbe da parte di Alfano, che secondo il giornale è già stato respinto al mittente, di riabbracciare in qualche modo Berlusconi, anche perché tra un anno o un anno e mezzo, con le elezioni, non so Alfano dove potrà andare, e quindi se non riabbraccia, come dire, una casa comune nel centrodestra. E dunque Alfano chiama Silvio, riuniamo i moderati. L'idea è questa: una grande ammucchiata, Alfano, Berlusconi, anche ipoteticamente Renzi, pur di fermare Beppe Grillo e di fermare il Movimento 5 Stelle. Questa è quello che è lo scenario secondo Libero. Mentre la Lega c'è questo problema di Bossi, questa svolta di Salvini che vuole togliere il nord dalla parola Lega, e Bossi che sembra un po' arrabbiato, tanto che ieri Salvini ha disertato la festa della zucca nel Piacentino, e pare che Umberto Bossi l'abbia presa così. È un po' stupido questo Umberto Bossi su Salvini, non è pronta a fare il premier, insomma anche all'interno della Lega si litiga. A proposito, c'è la questione migranti, c'è su tutti i giornali, ci sono tanti articoli, su tutti i giornali però c'è la posizione del Papa, perché il Papa, ritornando a Roma da Malmo in Svezia, ha rilasciato dichiarazioni, come spesso fa, ai giornalisti. Questa intervista che trovate un po' su tutti i giornali. Cosa ha detto il Papa sul tema immigrazione? Beh, ha detto: si deve distinguere tra migrante e rifugiato. Il migrante deve essere trattato con certe regole, emigrare è un diritto, ma deve essere regolato. Il rifugiato viene da una situazione di guerra e angoscia, fame. Lo status del rifugiato ha bisogno di più cura, più lavoro. Cosa penso dei paesi che chiudono le frontiere? Dice il Papa. Credo che in teoria non si possa chiudere il cuore a un rifugiato. C'è anche la prudenza dei governanti, che devono essere molti aperti a riceverli, ma anche a fare il calcolo di come poterli sistemare, perché non solo un rifugiato lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare. Se un paese ha capacità di integrazione, faccia quanto può. Se un altro ne ha di più, faccia di più, sempre con il cuore aperto. Non è umano chiudere le porte, non è umano chiudere il cuore. E alla lunga questo si paga politicamente, come si paga anche l'imprudenza nei calcoli e ricevere più di quelli che si possono integrare. Quindi capite, il Papa ovviamente parla di accoglienza, di cuori aperti, di niente muri, però dice anche che non si possono prendere le persone senza fare prima i calcoli e sapere dove metterle. Poi dopo rischia che uno li prende tipo a fare gli allenatori e non sa più che farsene. E li deve cacciare via. Sono cose che capitano, parafrasando la famosa frase. Sto ovviamente scherzando. Sto pazzia perché voglio salutare Mauro Meazza con il comunitariaissimo, per la verità, Frank De Boer. Non è un rifugiato, non è un migrante, però l'abbiamo spedito altrove. Buongiorno, no, Mauro. Perché appunto stai facendo confusione, un cittadino comunitario. Ah, beh, okay. libera circolazione, non comunitari, è libero di circolare. È libero, diciamo che oggi è liberissimo. Cioè, infatti oggi, guarda, con il Sole 24 Ore parliamo anche di rottamazione, ma l'ho visto già avidamente e no, non c'è la rottamazione dell'allenatore, non è prevista nessuna norma agevolativa per la mia squadra, invece c'è la rottamazione delle cartelle esattoriali e delle multe, hai presente? Quella che sta scaldando i motori. Allora, oggi insieme al Sole 24 Ore 16 pagine che ti spiegano come rottamare le multe. A proposito, anche se insomma il legame è un po' debole, però se tu leggerai in finanza del bilancio della Lazio, vedrai che ad esempio loro ancora hanno un debito con l'erario per 67,8 milioni. Io non so se poi rottameranno, ricorreranno anche loro alla rottamazione. Per tutti gli altri che magari hanno anche debiti inferiori, ecco, si può invece utilmente conservare questo allegato che diamo oggi con il Sole 24 Ore. E poi arrivo con l'ape, come dice il simpatico ascoltatore che ha lasciato il messaggio, ape, rita e tutte le altre, perché oggi sulle pagine di norme e tributi, due pagine proprio dedicate alle novità per le pensioni contenute nella legge di bilancio, quindi con anche i primi conti di quanto potrebbe costare poi sulla futura pensione l'anticipo, perché sai che l'ape è un anticipo, però poi lo devi restituire, a meno che non sia quella social. E allora abbiamo provato a fare anche qualche stima. È tutto su norme e tributi che tu leggerai come sempre scrupolosamente, ma no, religiosamente. Mamma mia, ma stai attento, ma sempre queste... hai fatto un giorno di ferie e già ti sei dimenticato non hai fatto neanche i compiti. Finanza avidamente, devo mettermi norme un fate tributi religiosamente, sì. Oh, e invece imprese e territori che tu leggerai scrupolosamente. Oh, bravo. Vedi che se ti impegni lo sai, ti segnala come in Italia ci siano ben 838 opere incompiute, si intende di grandi opere, ci costerebbero più o meno 3 miliardi l'anno, uso il condizionale perché sai sono stime, magari sono pure di più, però questa è la stima che presentiamo appunto nelle pagine di impresa e territori. Ho molte altre cose ti vorrei dire, ma il tempo appunto corre e non si arresta un'ora, diceva il poeta, e allora ti dico che sulle pagine di finanza la Banca d'Italia ha in animo di ampliare le banche vigilate con gli stress test, portandole dalle 44 attuali arriverebbe a un'ottantina più o meno, tutti i particolari su finanza e mercati. E infine per l'articolo da meditazione, ma direi oggi una pagina da meditazione, i tassi dei BTP che stanno risalendo sono arrivati all'1,76%, e devi leggere Vito Lops per capire com'è la condizione in cui giocano anche le questioni referendarie di cui dicevi poc'anzi e anche l'andamento del petrolio e i listini di borsa, ma è appunto un articolo di meditazione, lo trovi a pagina 9, sotto pure da meditazione la corrispondenza di Stefano Carrer da Tokyo, dove la banca centrale ha detto vabbè sentite noi non ce la facciamo a far risalire l'inflazione, abbiate pazienza. E questo è, meditate gente, meditate, nel frattempo, soprattutto per il nostro ex allenatore, traffico! Alessandro Milan, la nuvola dell'informazione. Costo un po' meno però della nuvola, non credo questa ma quella di Fuxas, forse si riferiva l'ascoltatore. Allora, devo leggere questo articolo relativo alle banche, per la precisione Veneto Banca, che è pubblicato dalla Verità, è a pagina 5. Con richiamo in prima pagina di Francesco Bonazzi, Veneto Banca spennava i suoi polli in 8 minuti. Contadine che diventano esperte di finanza speculativa in 8 minuti netti, puntano subito il proprio gruzzolo su azioni e obbligazioni convertibili della propria banca, casualmente. Risparmiatori ottuagenari fatti passare per investitori con obiettivi di guadagno di lungo periodo, correntisti convinti a comprare azioni spacciate come sicurissime perché non sono quotate in borsa, e poi adesso che il banco è saltato documenti che non si trovano, filiali che non rispondono se non ai decreti ingiuntivi. Ma questo è lo scenario relativo a Veneto Banca, almeno in questa inchiesta della Verità. Emblematica, racconta Bonazzi, la storia di una signora di un paese della Valpolicella che si è affidata a Cecilia Cusumano, avvocato dell'Adusbef di Verona. Ha 78 anni, ha la quinta elementare, è in pensione dopo aver fatto la coltivatrice diretta tutta la vita e il 31 gennaio 2013 va alla filiale di Affi, Verona, della Veneto Banca. E si ritrova trasformata in 8 minuti in uno speculatore scafato. Le stampate del suo ordine d'acquisto sono impietose. Alle 13.50 la banca registra un preordine su prodotti e servizi finanziari per l'acquisto di obbligazioni. Per un importo di 11.790 euro viene eseguita la cosiddetta verifica di adeguatezza e, come si evince dai documenti che vengono pubblicati, tra l'altro sulla Verità, l'operazione risulta non adeguata per obiettivo. Passa un minuto e alle 13.51 c'è un nuovo preordine dove si legge: il presente cliente non si avvale del servizio di consulenza, e così via. Insomma, nel giro di 8 minuti parte un acquisto e nel giro di 8 minuti, insomma, miracolo, una contadina di 78 anni è diventata un falchetto della finanza. Risultato: perde insieme al figlio 59.000 euro. Secondo la Verità ci sarebbero tante di storie simili, con documenti ora anche introvabili, ma tutti gli orrori di un buco da 5 miliardi raccontati a pagina 5. Invece molti giornali, se andiamo alle questioni estere, si concentrano su quello che succede a Mosul, nel nord dell'Iraq, dove i Peshmerga, come racconta tra l'altro Adriano Sofri, che li sta seguendo da tempo, i Peshmerga combattenti curdi, lo racconta sull'Unità in un bel reportage a pagina 6 e 7, Peshmerga insieme all'esercito iracheno sono entrati a Mosul, si combatte strada per strada, e tra l'altro Mosul è la città controllata dall'ISIS negli ultimi 2 anni. Racconta La Stampa che a difendere l'ISIS, o meglio a coordinare la resistenza dell'ISIS, ci sarebbe un ex generale di Saddam Hussein. Questa riprova che forse lo scioglimento dell'esercito che fu fatto dagli americani non ha fatto altro che ingrossare le fila poi della resistenza o di questi nuovi fenomeni come l'ISIS. È un ex generale di Saddam Hussein che guida la resistenza dell'ISIS a Mosul e cerca di sfruttare le divisioni tra curdi e sciiti iracheni per ritardare la caduta della città. Per questo Baghdad ha deciso di stroncare la resistenza islamista con un colpo di coltello diretto al cuore della città e condotto dalle forze speciali della Golden Brigade. Ma la componente sciita al potere a Baghdad guarda già oltre e vuole avvicinarsi alla Siria e a Raqqa con una manovra avvolgente. Comunque, questo è il racconto di Giordano Stabile, inviato ad Erbil in Iraq. Si racconta su tutti i giornali la presa di Mosul. Ovviamente vedremo a che prezzo e come. Si racconta anche molto di quello che sta succedendo in America. Manca una settimana ormai al voto, anzi meno di una settimana, 6 giorni al voto per le presidenziali americane, e c'è la questione, che faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Facebook, la questione delle email gate, cioè l'affondo di Trump. Se vince Hillary è crisi istituzionale. Insomma, l'idea è che anche dopo il voto ci trascineremo, chiunque sia il vincitore, polemiche se non inchieste. Questa è la sensazione un po' di tutti i giornali, questa nube tossica che potrebbe durare anche dopo le elezioni dell'8 novembre, racconta per esempio Giuseppe Sarcina, perché l'FBI ha aperto un'inchiesta relativa a Hillary Clinton nelle mail, non ha specificato bene al momento che cosa ci sia dentro queste nuove mail, e questo ha suscitato molte polemiche e una campagna elettorale paralizzata su questo. Paralizzata pare la parola che trovo sulla stampa anche a Venezia. Venezia, chi è stato a Venezia, questo ponte, o chi è di Venezia, racconta di una città letteralmente invasa da turisti. D'altronde il ponte è quello, la gente ci va. E allora però a Venezia rilanciano, secondo la stampa, questa idea del mai più così tanti turisti. Ora numero chiuso, le calli invase per ogni santi. Il comune dice: vogliamo un accesso con gli smartphone con un numero limitato. Insomma, l'idea dei turisti a numero chiuso. Rilancia Venezia questa idea. E poi c'è questa notizia che ho trovato, vediamo, c'è spazio per una, che ho trovato sul Corriere della Sera. È una bella pagina con tantissime facce di donne scienziate. Pagina 25, chiedetelo alle scienziate. Succede che i mass media, soprattutto le TV, ma non solo, a caccia di esperti in vari campi, 8 volte su 10 cercano uomini. E allora le donne si sono arrabbiate, si sono organizzate e domani presenteranno un sito con i 100 nomi, anche i curriculum, di grandi studiose italiane. Come dire, quando cercate una scienziata o un esperto, cercate un'esperta. Quando cercate uno scienziato, cercate una scienziata, perché ci siamo anche noi. 100 donne che in vari ambiti sono esperte e sono disponibili a divulgare la loro materia scientifica. Ma eccoci qui, alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è il micio maestro di vita. Zen, il mio micio. Se l'ho chiamata anche Zen, per quello, no, Zen, più maestra di vita di così, Zen. Eccolo qua, il micio maestro di vita su Libero. Mezza pagina che racconta il metodo catfulness. Cat sta per gatto, dove ci sono i disegnini con tutto. Anche imparando lo stretching felino. Ma chi se ne frega?